Allora, adesso siamo in collegamento con uno studente dei collettivi organizzati delle scuole di pratiche. Questa mattina sono scesi in piazza con una serie di azioni rapide e istantanee per ancora una volta contro la riforma e contro il progetto di smantellamento della scuola pubblica. Pronto, ci senti? Sì, sono Dario, un ragazzo del Tacito, faccio parte dei collettivi auto-organizzati di Prati. Questa mattina siamo scesi in piazza, noi del collettivo di Prati, per mostrare il nostro dissenso verso tutti questi tagli rivolti alla scuola pubblica. Siamo andati prima a Piazza Mazzini, abbiamo girato per il nostro quartiere, ci siamo seduti, abbiamo fatto finta di studiare perché noi vogliamo veramente studiare, non scendiamo in piazza occasionalmente solo per saltare scuola. Abbiamo esposto dei 5 euro falsi per dire che ormai abbiamo solo questi e se Tremonti e la Gelmini vogliono prendere anche questi. È stato semplicemente un atto dimostrativo per riprenderci le nostre strade del nostro quartiere. Ho capito, allora insomma se ci puoi raccontare anche un pochino meglio come poi si è continuata la giornata, la piazza Mazzini, so che vi siete spostati, no? Ci siamo incontrati la mattina davanti al liceo Terenzio Mamiani, dove abbiamo incontrato tutte le altre scuole, eravamo Caravillani, Talete, Tacito, Mamiani e Talete. Là siamo partiti, arrivati fino a Piazza Mazzini, ci siamo seduti, abbiamo iniziato a far finta di studiare, abbiamo avuto un po' di problemi comunque con le forze dell'ordine locali, abbiamo deciso di spostarci verso Piazza Cavour e poi siamo arrivati in corteo da Piazza Cavour fino a Piazza Risorgimento per via Ottaviano e siamo risaliti fino al liceo Mamiani e tuttora stiamo portando la nostra protesta davanti al liceo Mamiani nuovamente. Ho capito, allora noi vi ringraziamo, se avete altri appuntamenti da lanciare dai microfoni di questa radio, digli pure, se no ci andiamo a risentire nei prossimi giorni. Ci risentiremo nei prossimi giorni, dobbiamo ancora organizzarci bene per i prossimi appuntamenti. Grazie per questo spazio. Va bene, ciao ciao, mi ripassi solo, Dario? Se la trovo. Dai. Aspetta, via, ti faccio richiamare. E vabbè, la richiamo io tra 2 minuti, Va grazie, bene. ciao ciao.